Nel 2050 saremo 9,8 miliardi di persone, cresciamo a un ritmo di 83 milioni l'anno. Sempre nel 2050 due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città. Il mondo sarà più popoloso e più in movimento. E se la demografia fosse anche una leva politica, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. La questione demografica in realtà dimostra di essere effettivamente una questione prettamente più politica che numerica. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tale e Elisa Pancaldi, che sono come sempre con me in redazione, Gianmarco Ferronato, che è in regia. Vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, che sono il 349-238-6666. Potete mandare sms, potete mandare whatsapp. Potete poi twittare all'indirizzo Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, e infine scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Siamo in diretta sia su questa pagina che sulla pagina di Radio 24. Allora, oggi, come anticipato, facciamo un balzo nel futuro e vi raccontiamo il mondo che verrà. Secondo le proiezioni degli osservatori delle Nazioni Unite, gli ultimi dati sono stati elaborati nel 2015. Nel 2050 saremo, come avete sentito, 9,8 miliardi di persone. La crescita, il cosiddetto boom demografico, in realtà negli ultimi anni si è arrestato, nel senso che tendenzialmente si pensava saremmo cresciuti di più. Però insomma non è che saremo proprio pochini. E vi sarà anche un ribaltamento un po' nelle gerarchie delle popolazioni più numerose. E sempre nel 2050 il paese più popoloso al mondo sarà l'India, seguito dalla Cina e seguito poi dalla Nigeria. Come vivremo? Quanti saremo? Dove saremo? Insomma, quali saranno le dinamiche legate a questa crescita demografica? Di questo parliamo nella puntata di Nessun Luogo Lontano, che si sgancia un po' dalla stretta attualità internazionale, ma sempre con un occhio buttato a quello che cade fuori dai confini italiani. Vi avevamo parlato, per esempio, delle elezioni in Angola. Abbiamo dedicato un'ampia pagina di Nessun Luogo Lontano nei giorni scorsi. Ebbene, è notizia di pochi minuti fa che il partito al potere in Angola, l'MPLA, ha dichiarato, senza ancora che siano finiti gli scrutini, di aver vinto. L'opposizione ha già fatto una levata di scudi. Tra poche ore si dovrebbero avere i risultati ufficiali, ve ne rendo conto se saremo ancora in onda. Ma torniamo a questa fotografia del futuro, questa fotografia della Terra e della popolazione nel 2050. Per meglio tratteggiarla ci soccorre il professor Alessandro Rosina, che insegna demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Professor Rosina, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, prima di darle la parola, lei sa che noi amiamo dare i numeri e partiamo proprio dai numeri. Secondo le stime delle Nazioni Unite, nel 2050 la popolazione mondiale passerà dai 7,3 miliardi del 2015 a 9,7 miliardi. Si tratta di un incremento del 32%, che però segnala un calo demografico rispetto al passato. Nel XX secolo, infatti, la popolazione mondiale si era quadruplicata. Nei prossimi 34 anni l'Africa vedrà raddoppiare il numero dei suoi abitanti, che diventeranno 2 miliardi e mezzo, superando così il numero di europei, che subirà una riduzione del 4%. Statisticamente, una donna africana partorisce 4,7 bambini, contro l'1,6% di una donna europea. Anche per questo indice, nel 2050 la Nigeria diventerà il terzo paese più popoloso del mondo, con 399 milioni di abitanti, superando Pakistan, Brasile, Indonesia e Stati Uniti. L'Asia rimarrà ancora il continente più popolato, seguito da Africa, America e infine Europa. Ma la Cina non sarà più il paese numero uno per abitanti. Verrà infatti spodestata dall'India, che raggiungerà 1 miliardo e 700 milioni di persone. Inoltre, si assisterà a un aumento della longevità.

Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che cerca di guardare al futuro, al 2050, al boom demografico, che analizza anche un paio di casi in cui le dinamiche demografiche sono vere e proprie leve geopolitiche. Abbiamo quel grande laboratorio di ingegneria sociale e demografico che è stata la Cina, e l'abbiamo analizzato. E poi abbiamo la questione israelo-palestinese, che si può leggere, può essere letta anche attraverso la lente della questione demografica. Paolo Maggiolini, dell'Università Cattolica di Milano, ricercatore anche di ISPI, fra l'altro esperto di Medio Oriente, ha spiegato un po' i tre cardini della questione israelo-palestinese dal punto di vista demografico. Ma poi c'è una domanda diretta: qual è il popolo che cresce di più, è quello israeliano o quello arabo? Sentite Maggiolini. La questione demografica in realtà dimostra di essere effettivamente una questione prettamente più politica che numerica, perché se guardiamo soltanto l'ambito interno israeliano, in realtà le proiezioni fanno vedere che non esiste una vera, tra virgolette, nella prospettiva israeliana, minaccia demografica. La questione della maggioranza della componente ebraica all'interno dello Stato di Israele a territorio di oggi, nel futuro, diciamo nel traguardo 2035, non è minacciata in nessun modo. Fondamentalmente la popolazione oggi, circa 6,5 milioni di cittadini, sono ebrei, e 1,8 è la componente araba. E in realtà negli ultimi anni, nell'ultima decade, anche il trend, diciamo, del tasso di nascita delle due componenti fondamentalmente sta uniformandosi. Non coincide perfettamente, ma non ha un gap una forbice tale per cui su questo periodo, anche diciamo il 2035 e oltre, si può mettere in crisi questo bilanciamento. Se guardiamo il contesto invece dell'autorità nazionale palestinese, e Gaza, fondamentalmente il numero di palestinesi, di arabi palestinesi che risiedono in quel territorio è grosso modo circa quasi 5 milioni di persone, e a questi 5 milioni vanno aggiunti in realtà i palestinesi che risiedono ormai da decenni fuori nei paesi arabi limitrofi, di cui circa quasi 1,5 più o meno sono i rifugiati. Quindi anche in questa prospettiva si capisce che in realtà il bilanciamento tra i due componenti esiste. La questione è dove si pone il discrimine dell'inizio e della fine di questi due spazi politici. Se si ragiona su un Israele di uno Stato unico, quindi che prende in tutta la Palestina storica, effettivamente le demografie cambiano, si arriva fondamentalmente quasi al 50% già oggi, e in prospettiva in realtà un aumento della percentuale araba su quella ebraica. Se però rimane, diciamo, la dimensione dei due stati, in realtà il fattore demografico non è così determinante, diventa un fatto politico ovviamente. E nell'analisi di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano, adesso vi faccio fare un doppio salto mortale, vi porto in Brasile. La voce che sentite è quella di Maria Zinha, della comunità Rocoari, appunto in Brasile, leader Yanomami, e in un messaggio comunica che sono arrivate apparecchiature tecnologiche per sorvegliare la zona in cui sorge la sua comunità, per inviare messaggi in caso di pericolo e intrusione di uomini che vogliono ucciderli. La leader dice che ama la sua terra e lotterà per proteggerla. È una delle tante testimonianze che potete trovare sul sito di Survival International. Do così il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Fiore Longo, antropologa e ricercatrice per questa organizzazione. Dottoressa Longo, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Perché abbiamo invitato lei di Survival International? Perché questa organizzazione internazionale si occupa di una fetta della popolazione piuttosto dimenticata, che sono i popoli indigeni. Sono piccole comunità che nel mondo che stiamo tratteggiando, nel 2050, un mondo in supermovimento, in crescita demografica, rischiano di essere quantomeno travolte. Partiamo dalle definizioni, dottoressa Longo. Che cos'è un popolo indigeno, secondo la legge? Allora, possiamo dire che nessuna categorizzazione dei popoli indigeni è assoluta. Noi quella che utilizziamo è quella della Convenzione ILO, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 169, che è l'unica, diciamo, l'unico trattato che è veramente vincolante per gli stati che lo rettificano. Cioè, le altre cose l'Italia non lo ha fatto. E definiscono, appunto, distinguono in realtà tra indigeni e tra popoli tribali. Possiamo dire che secondo questa convenzione i popoli indigeni sono quelle componenti della comunità nazionale che erano presenti nel territorio prima dell'arrivo, della colonizzazione o appunto della conquista. Mentre, sì, ovviamente che si distinguono dalle altre componenti per delle caratteristiche sociali, economiche e culturali. E i popoli tribali invece si distinguono dalle altre componenti insomma, di uno Stato perché sono autosufficienti, insomma, dipendono per il proprio sostentamento dalla terra e appunto si identificano in modo diverso dalle altre componenti, cioè si autodefiniscono tribali, così come gli indigeni, una componente molto importante è anche la componente soggettiva, devono appunto definirsi, sentirsi indigeni. Ecco, dottoressa Longo, stiamo parlando di 370 milioni di indigeni, di cui 150 milioni tribali nel mondo, concentrati soprattutto in Asia, in India, da cui lei è, diciamo, è appena arrivata, fresca di missione. Stiamo parlando di questi casi perché forse queste comunità di indigeni ci possono insegnare qualcosa. Partiamo dal caso concreto che lei ha vissuto in India. Sì, allora, credo che abbiano tanto da insegnarci, soprattutto adesso che stiamo parlando di catastrofi ambientali e demografiche. Diciamo che i popoli indigeni hanno sviluppato stili di vita largamente autosufficienti, diversi e soprattutto sostenibili. La sostenibilità significa rispettare la capacità della natura di provvedere e di rigenerare anzi le risorse che sono necessarie alla vita. In questi popoli indigeni hanno tantissimo da dirci. Io ho fatto ricerca nelle riserve delle tigri, dove abitano moltissimi popoli tribali che in questo momento sono sotto minaccia di sfratto, sì, e vivono, convivono con la tigre da generazioni e hanno, la considerano una componente fondamentale della loro famiglia spirituale, ma non solo, hanno sviluppato tutti i codici di conservazione per riuscire a mantenere i loro ecosistemi in modo sostenibile, appunto. Ad esempio, loro credono che le tigre mangiano il miele e quindi lasciano, appunto, quando lo raccolgono, lasciano un po' per terra per le tigri. E, insomma, cercano di proteggere la natura in tutti i modi possibili e, ad esempio, nell'unica riserva delle tigri, che è quella di Arti, dove è stato riconosciuto il diritto ai popoli tribali di restare, e abbiamo avuto, secondo il censimento, una crescita del doppio rispetto alla media nazionale delle tigri, a prova appunto che uomini e tigri possono vivere insieme e che i popoli indigeni sono i migliori custodi dell'ambiente. Ecco, Fiore Longo, dal punto di vista antropologico io capisco che possa essere di grandissimo interesse studiare questa popolazione e il rapporto con le tigri. Poi c'è un altro dossier che lei ha sul tavolo, che è quello dei pigmei del bacino del Congo, su cui ho fatto un lavoro qualche anno fa, però mi sembra di poter dire che stiamo parlando di una popolazione mondiale residuale che vive veramente in una condizione molto speciale, no? Siamo nella foresta congolese, per esempio, i pigmei sono popoli di raccoglitori e di cacciatori. Quale grande lezione possono darci? Perché noi stiamo parlando di 9,8 miliardi di persone nel 2050, senza fare allarmismi, però voglio dire, siamo pesanti, siamo presenti e consumiamo tanto. Certo, allora innanzitutto le loro conoscenze che sono sviluppate nel corso di migliaia di anni sono assolutamente insostituibili, riescono a sopravvivere in aree dove noi senza tecnologie non riusciremo assolutamente mai a sopravvivere, neanche un giorno. Ma credo che l'argomento in realtà più importante per noi è che sì, il nostro modo di vita, quello che sta consumando tantissime risorse, sta anche distruggendo l'ambiente e credo che proprio per questo dovremmo essere assolutamente preoccupati per la sorte dei popoli indigeni, perché le prove dimostrano che i territori indigeni, ad esempio, costituiscono la miglior barriera alla deforestazione. Dove ci sono loro c'è la biodiversità, sì, e questo è assolutamente necessario per noi per sopravvivere in quanto specie, anche perché biologicamente sia culturalmente, gli scienziati ci dicono che abbiamo bisogno di diversità per sopravvivere. Facciamo un cenno su quell'altro dossier a cui facevo riferimento, no? La popolazione pigmea. Io qualche anno fa ero in Repubblica Centrafricana, ebbi un'esperienza abbastanza traumatizzante perché vedevo popolazione pigmea che approcciava i villaggi Bantu, l'etnia dominante in quella zona, e da raccoglitori e cacciatori diventavano agricoltori, con tutta una serie di problemi, di vero e proprio scontro di civiltà, ma anche dal punto di vista sanitario, perché contraevano magari malattie derivanti dalla vicinanza con maiali o con polli, si facevano comprare, tra virgolette, per un pacchetto di sigarette. Diciamo, l'avvicinamento alla civiltà a volte per queste popolazioni può essere un trauma molto molto forte. Sì, allora, innanzitutto non è che, cioè, di solito i popoli indigeni non è che si trasformano in agricoltori o comunque entrano in contatto con altre società perché cioè, lo hanno scelto, in alcuni casi è così, ma la maggior parte delle volte è perché si è verificato un furto di terre. È chiaro che se loro non possono accedere alle loro risorse perché la terra viene rubata, ovviamente sono costretti a fare altre cose. In India questo è una cosa che succede anche nel bacino del Congo, ma io con i miei occhi ho visto tantissimi popoli tribali che non potendo più accedere alle loro risorse perché la loro terra è stata trasformata in una riserva delle tigri, sono costretti a praticare l'agricoltura. Dall'altra parte, noi abbiamo fatto uno studio, pubblicato anzi un report che si chiama Il progresso può uccidere, che è appunto proprio su questo, sulle conseguenze nefaste che possono avere il progresso, cioè le politiche anche di scolarizzazione, ma anche di civilizzazione, come viene chiamata, forzata sui popoli indigeni, sì. Che provoca un aumento del suicidio, ma anche un calo del livello di salute, ma non solo, anche appunto l'alimentazione che cambia. E con le conseguenze diabete e ipertensione, quindi stiamo parlando anche di impatti a lungo termine sulla salute. Sì, insomma, ancora una volta la parola d'ordine dovrebbe essere gestione e soprattutto lungimiranza, perché in questa puntata vi stiamo raccontando il mondo da qui al 2050. Grazie mille Fiore Longo, antropologa, ricercatrice per Survivor International. Date un'occhiata al sito se volete conoscere un po' di più quei 370 milioni di indigeni, di cui 150 milioni tribali, e le loro storie. Grazie mille dottor Longo, buona giornata, buon lavoro. Noi andiamo invece sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo è lontano. In questa puntata di Nessun Luogo, in cui vi stiamo raccontando cosa accadrà nel 2050, quanti saremo, come vivremo e quali sono anche, se volete, gli aspetti più politici o geopolitici della demografia, di quanti figli facciamo, di quanto cresciamo e di quanto anche questo aspetto mette in discussione le nostre identità. Al 349-238-6666 c'è chi mette al bando il meticciato. Qua non è questione di auspicarlo, rispondo direttamente all'ascoltatore: non l'abbiamo auspicato, è sicuramente una delle conseguenze che avremo. E poi Claudio da Torino invece via SMS che mi dice: come siete buonisti, il vero problema ambientale è che siamo in troppi miliardi. Ma in effetti abbiamo detto che saremo 9.8 miliardi, non capisco dov'è l'essere buonisti, forse perché abbiamo parlato dei popoli indigeni, e vabbè, insomma, comunque sono 370 milioni di persone, non è certamente un bruscolino. E in ogni caso era un tentativo di, come dire, fornire un contraltare, come se fosse appunto l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della storia. Abbiamo raccontato un mondo sempre più piccolo, sempre più interconnesso, sempre più popolato, e ci sono queste sacche di resistenza, tra virgolette, rispetto al progresso. Sicuramente una delle linee del progresso è la strada che porta in città, perché il 2/3 della popolazione vivranno in ambito urbano, con tutta una serie di conseguenze che analizziamo con Antonio Calafati, Academy of Architecture USI dalla Svizzera. Buongiorno professor Calafati, ben trovato a Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno, grazie. Allora, la prima domanda è questa: che modello di città ci dobbiamo immaginare di qui a 20-30 anni? Dunque, immaginare un modello di città molto difficile, perché dipende da quale area geografica del mondo si prende come oggetto di analisi, ma certamente le città saranno profondamente diverse, perché questa concentrazione questa urbanizzazione determinerà delle reazioni che trasformeranno in maniera forse inimmaginabile adesso le città della città del futuro, perché l'urbanizzazione sta portando con sé una quantità di disequilibri. Le città sono un fatto politico, quindi è chiaro che ci saranno mutamenti istituzionali e strutturali che cercheranno di compensare questi profondi disequilibri generati dall'urbanizzazione. Sì, allora partiamo da un po' di casi concreti, professore, perché data la mia vocazione, il lavoro soprattutto nell'Africa subsahariana, e l'Africa a noi ci consegna quello che lei diceva, grandi disequilibri. Se penso a capitali come Kinshasa o altre capitali come Nairobi, molto spesso si assiste a un centro ricco, ben arredato dal punto di vista urbano, e poi però delle periferie pazzesche, con grande degrado, soprattutto dove si assiste, come ricordava Le Monde in un recente articolo proprio su Kinshasa, a una crescita totalmente scomposta, come se proprio non vi fosse una visione rispetto al futuro. Questo è un po' il grande pericolo, no? Di non pianificare il futuro. Ma guardi, l'urbanizzazione può anche essere definita un progetto politico. Uno dei temi che si dovrebbero considerare quando si riflette in termini di futuro, che probabilmente questo è un paradigma deterministico, cioè immaginarci che tra 50 anni accadrà, ci sarà un grande rafforzamento dell'urbanizzazione, non tiene conto che di una reazione sicuramente in atto che diventerà più forte di frenare i processi di urbanizzazione. Quindi questo è un grande tema. L'idea che l'urbanizzazione nel parte il fatto che è un termine ambiguo, perché noi in Europa chiamiamo città anche un sistema insediativo di 50.000 o di 30.000 abitanti, forse sì, anche meno oramai, mentre in Africa o in Sud America, dove abbiamo sistemi primaziali, abbiamo un'idea dell'urbanizzazione appunto nelle forme che lei ha indicato. Sì. Quindi diciamo un tema da considerare è che questo futuro fatto di che estrapola ciò che è accaduto negli ultimi diciamo due decenni potrebbe anche essere diverso, perché ripeto, il tema di questo progetto politico che sta manifestando dei grandi squilibri si trasformerà in un rafforzamento. In Europa, per esempio, prende la forma del policentrismo urbano, cioè nel territoriale, cioè l'agenda territoriale europea prevede un sistema di insediamenti molto articolato sul territorio e non prevede queste grandi concentrazioni. Quindi questo è un tema di fondo. Così come il sostegno all'attività agricola nei villaggi sta crescendo come tema centrale per frenare l'urbanizzazione. Sì. Perché le città che si stanno costruendo sono città assolutamente insostenibili da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche politico, assolutamente. Quindi questo è un tema, diciamo, che va declinato non in modo deterministico, ma considerando la reazione che i sistemi politici in tutte le regioni del mondo avranno a questa crescita urbana, che ovviamente sta assumendo, ma come progetto, una sua forma, diciamo, di mancato controllo. Sì. In Europa abbiamo un controllo molto maggiore, ovviamente abbiamo avuto e abbiamo un'attenzione enorme a cercare di controllare il processo di urbanizzazione sia in termini fisici che politici che sociali. In altri paesi questo non è avvenuto, ma non è immaginabile che sia sostenibile. Ecco, però professore, il grande paradosso qual è? Che lei citava come virtuoso il caso del policentrismo europeo, quindi dove si evitano grandi megalopoli, quindi c'è una distribuzione, no? Però è paradossale che l'Europa è il continente che cresce meno, no? Mentre invece le grandi crescite ce l'abbiamo in India, ce l'abbiamo in Nigeria. Ecco, e Antonio... Crescita in che senso? Crescita economica o crescita demografica? Crescita demografica, sì. Certo. Prendiamo per esempio le grandi megalopoli dell'Estremo Oriente, no? Penso a Singapore, a Pechino, certo, a Hong Kong. Lì c'è una volontà di dotare le città di grandi infrastrutture, di linee metropolitane, quindi anche quello può essere un modello, secondo lei, vincente rispetto al policentrismo europeo? Ma guardi, questa idea che le grandi concentrazioni siano più innovative, più efficienti, più democratiche, più sostenibili, non ha fondamento. Non ha assolutamente fondamento, non c'è nessuna ragione per immaginare che la qualità dello sviluppo, di benessere, diciamo, individuale, si basi su queste grandi concentrazioni. Il tema cruciale, peraltro, di questa dell'urbanizzazione non è neanche una questione di scala. Il tema cruciale è che queste grandi città sono diventate sistemi fortemente instabili sullo sfondo della globalizzazione. E la grande reazione in atto in tutto il mondo, più o meno, certamente in Europa, è chiarissima. E che io devo stabilizzare, cioè se accetto questi processi di urbanizzazione non posso tenere milioni di persone con economie così instabili. Quindi se lei va a Barcellona, se va ad Hamburgo, se va a Salisburgo, se va nell'esperienza europea sono avanzati, c'è un atto, un grande mutamento molto profondo, quindi già si parla pochissimo, ma di rendere queste città più stabili da un punto di vista economico, più democratiche in termini di distribuzione e ovviamente più sostenibili in termini ambientali. Il modello della città cinese, diciamo così, anche sudamericana, è un modello, sì, che replica il modello del funzionalismo degli anni 50 o 60, ma è un modello vecchio. Siamo tutti preoccupati del fatto che si stiano lì costruendo delle città che hanno una forma fisica, una relazione tra l'abitare e il produrre, ad esempio, una relazione, un'idea di mobilità tutta infrastrutturale che è veramente vecchia. Che quindi, diciamo, io credo c'era una grande tensione, un grande dibattito su queste, sulle differenze di modelli di urbanizzazione. Noi stiamo parlando di urbanizzazione in termini troppo generici, ma prenderà forme molto diverse, ma le imporranno non tanto le ideologie, quando quanto i problemi concreti, quanto l'inquinamento, quanto i tempi dello spostamento. Però mi sembra di capire, professore, dalle sue parole che piccolo è bello, o quantomeno medio è bello, no? Il tema del piccolo è un tema molto relativo, il piccolo, no? Nel senso, adesso io nel Baden-Württemberg, no, le imprese sono piccole, ma sono 5 volte, no, la media di quelle che puoi trovare in Veneto. Cioè il piccolo è un concetto molto molto molto relativo. Punto, ripeto, quale regione del mondo noi guardiamo, è abbastanza evidente comunque che, come dire, la sostenibilità nei paesi delle città o megalopoli o grandi metropoli africane o del Sud America e così via, quasi la trovi di più negli slum che nella parte diciamo più moderna, nel senso che siamo al paradosso che certe forme di insediamento informale stanno diventando, agli occhi degli analisti, più interessanti per gestire la coesione sociale, per gestire la sostenibilità ambientale, perfino forme di democrazia delle parti diciamo più tipicamente moderniste. Quindi diciamo, io penso che sia affascinante come tema, perché vedrà dei cambiamenti che, se non siamo bloccati ideologicamente, le città si trasformeranno profondamente, diciamo così. Ci sono anche in alto, diciamo così. Certo. Io guarderei molto all'Europa, perché sarà un modello, a mio avviso, di urbanizzazione, anche se ovviamente la scala è molto diversa. La Cina è andata ormai per una direzione che non si capisce dove andrà, questo è tutto. Ma evidente. Peraltro, ecco, il mio non era un endorsement, diciamo, certo, sulla vita quotidiana di Pechino. Ci sono stato un paio di settimane, devo dire, senza tema di essere attaccato, che è una delle città più inospitali che io abbia mai vissuto, dove è impossibile fare una passeggiata, e sì, super tecnologica, però insomma dei seri problemi ce l'ha, 18 milioni di persone, sì. No, 21 e mezzo, mi corregge adesso Antonio Talia, comunque. Accogliamo di buon grado invece il modello europeo che ci propone, ci ricorda, con l'avvertenza di Antonio Calafati dell'Academy of Architecture USI dalla Svizzera, che comunque le trasformazioni ci saranno e comunque insomma bisogna stare all'occhio su quello che avverrà. Grazie mille, professore, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie e buon voi, lavoro. Gianmarco Ferronato, è tempo di titoli di coda. Senza aspettare il 2050. Allora, con i quali ringrazio Antonio Talia e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me questa puntata. Gianmarco Ferronato e le sue pennellate musicali in regia. Voi per essere stati all'ascolto e i tanti commenti sui social. L'appuntamento è questa sera, ore 20, la replica. Se siete mattinieri, magari durante una corsetta, domattina alle 6. E poi domani, ore 16, di nuovo, Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.